Ave Maria a tutti ragazzi e ragazze carissimi, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio per una nuova puntata di trasmissione Spazio Giovani. Al microfono come sempre Don Leonardo Pompei che oggi rapidamente e va subito nel merito della nostra conversazione odierna perché è tempo di chiudere il quarto comandamento per aprire il quinto, per cui vorrei possibilmente nella prima parte di questa trasmissione, ecco, concludere, se ci riusciamo, questa trattazione di questo importante comandamento con le ultime, diciamo, raccomandazioni dedicate agli educatori e poi aprire il nuovo capitolo del quinto comandamento, che quello anche sarà un capitolo che ci porterà, diciamo, a dover spendere più di qualche puntata per poterlo esaurire. Allora, la volta scorsa, se vi ricordate, abbiamo completato, diciamo così, il decalogo pratico per chi ha seguito dell'educatore. C'era, diciamo, il decalogo del buon educatore che abbiamo visto qualche puntata fa, che metteva in luce, diciamo, i principi generali derivanti dalla sapienza dei santi a cui ogni buon educatore cattolico deve ispirarsi. Poi, vi ripeto, sulla base della mia esperienza pastorale, quindi è tutto quanto perfettamente opinabile, ho individuato, diciamo, 10 punti su cui concreti i genitori fanno bene a fare estrema attenzione. Oggi vorrei, come dire, concludere con una serie di, come dire, ammonimenti su alcune possibili, diciamo così, io le chiamo sindromi dei genitori, ecco. Sindrome vuol dire delle tendenze negative e ordinariamente nascoste, quindi che non nascoste non perché non appaiono a chi le vede, ma non appaiono a chi ne è affetto. Cioè, chi ha queste cose, se tu, pur con tutta la dovuta carità, ti azzardi a farlo notare e ti imbatti regolarmente in un dico io, ma io non sono così assolutamente. Ma è una cosa che non mi riguarda, magari che ti stai sbagliando, eccetera, eccetera, perché hanno come caratteristica quella di essere presenti ma nascoste. Quindi sono viste più facilmente dalle altre persone che da coloro che ne sono affetti. Ecco, però fanno tanti di quei danni che li sa soltanto bene nostro Signore. Domini Dio, perché l'essere affetti da uno di questi di queste sindromi, che la volta scorsa, se vi ricordate, abbiamo concluso semplicemente enunciandole, comporta delle grandi problematiche dal punto di vista educativo e fanno danni. Anche questi sono frutto, diciamo, di osservazione e di personale esperienza pastorale di chi vi parla. Quindi, vedendo, diciamo che si enucleano alcune tipologie di situazioni problematiche che come dire, hanno come minimo comune denominatore il fatto di minare alla radice il rapporto educativo. Ecco, ovvero la relazione non paritaria, ma appunto fondata sul principio di autorità che abbiamo definito distinguendolo, mi raccomando, dalla sua degenerazione, dalla sua ipertrofia, che sarebbe l'autoritarismo o addirittura il padre padrone, eccetera, eccetera. Ok? Ecco. Quindi a questo punto, scendiamo subito nel merito, ragazzi, perché è meglio adesso andarle a affrontare. Il tono di queste è, come dire, volutamente leggero e scherzoso. Non lo so, io questo fa parte un pochettino di alcuni stili che a volte adopero, perché mi sembra che a volte per parlare di cose serie bisogna evitare i toni seriosi, perché già sono abbastanza serie le cose di per se stesse e a volte, come dire, presentarle sotto un tono leggero, scherzoso, aiuta a far riflettere, ma questo non vuol dire che vadano prese alla leggera, il fatto che siano espresse in tono leggero, e lo stesso, il fatto che siano estese, espresse in termini scherzosi, non vuol dire che sono scherzi o che sono burle o che sono cose da nulla. Quindi vuole temperarne l'estrema serietà, ecco, per non dire la drammaticità che le caratterizza, ecco. Però senza con questo volerne affatto sminuire l'importanza, ecco. Quindi con questo, diciamo, piccolo cappello introduttivo, adesso andiamo ad analizzarle. La volta scorsa le abbiamo elencate, quindi adesso le riprendiamo una per una, a partire dalla prima, che è la sindrome dello struzzo, per analizzarle insieme. Chi è lo struzzo? Tutti quanti sappiamo e già capiamo che lo struzzo è quell'animale che dinanzi al pericolo, anziché prendere provvedimenti o al limite fuggire, prende e mette la testa sotto la terra, cioè non vuole vedere il pericolo incombente. Allora, per mezzo di questa, che cos'è questa sindrome? Questa sindrome si esprime con un'espressione, scusatemi la ripetizione di parole, diciamo così, questa sindrome si esplicita, ecco, nell'espressione, che è una sorta di dogma slogan: a mio figlio non può capitare. Cioè, allora, che succede? Ci sono dei problemi, no? Oggi ogni tanto arrivano statistiche allarmanti, non lo so, primo rapporto sessuale a 12 anni, oppure gli adolescenti di 14-15 anni, io ricordo che ci feci degli incontri, già 10 anni fa c'erano degli articoli assai preoccupanti sui giornali di opinione mondani, diciamo così, con numeri impressionanti circa l'uso e l'abuso precoce da parte dei giovani di alcol e di sesso e di droga, dalle canne in su, pasticche, eccetera. Allora, vieni tu parlando, facendo gli incontri con i genitori, tutti quanti con le facce preoccupate, cioè, sì, mamma mia, che disastro, con che mondo stiamo? Però mio figlio non può capitare. Cioè, quindi questi sono problemi che riguardano gli altri. Cioè, quindi sono cose vere, per carità, sono cose preoccupanti, ma non a mio figlio. Ecco, quindi cosa significa? Cioè, fai vedere, tu vai a fare un discorso, avevi tutti quanti con le teste che fanno così, no? Quindi i genitori che annuiscono col capo e strabuzzano gli occhi in segno di evidente, ecco, sconcerto e preoccupazione. Ecco, però mio figlio non può vestire i panni dell'attore protagonista di questa brutta storia raccontata dal catechista o dal conferenziere di turno. Quindi, che vuol dire? Vuol dire che tutti quelli che quella catechesi l'hanno sentita, con quell'esortazione l'hanno sentita, nessuno di loro, come dire, si attiverà per prevenire quei mali tanto denunciati. Perché certamente, che lo so, sono cose che succedono, non è che, ma non a mio figlio. Cioè, quindi, capite? Sindrome dello struzzo, quindi. E guardate che a volte, cari ragazzi, guardate, chiunque voglia diventare prete sappia che farà una cosa meravigliosa, una delle cose più belle che esistono, però, come diceva il buon curato d'Ars, anche una delle cose più difficili e più dolorose che esistono. Ecco, perché io mentre parlo di queste cose mi vengono ovviamente davanti le immagini. Immagini di situazioni di ragazzini che gli occhi, diciamo, allenati di un educatore sul campo, come un prete in cura d'anima, vede alcune cose prima ancora che siano, insomma, macroscopiche. Tu provi a avvertire i genitori, dicendogli: guarda che mi sembra di aver notato questa cosa, guarda che questo è un brutto segno, guarda che questo è un brutto segno, guarda che questo è un brutto segno. Nessuno ti dà retta, ovviamente, nessuno prende provvedimenti. E poi i ragazzi fanno le fini che fanno, come poi ti vengono a riferire, brutte fini. È ovvio che ti viene subito il pensiero, dice, ma avessi dato retta? Ecco. Per dirvi, no? Questa è molto diffusa la sindrome dello struzzo, cioè che impedisce di vedere dei pericoli reali che possano attanagliare tuo figlio, nell'illusione che tanto lui è esente, perché soltanto l'idea di poter, come dire, in qualche modo pensare che tuo figlio fosse coinvolto e ti uccide interiormente, quindi non la calcoli nemmeno. Allora, un'altra cosa, un'altra brutta sindrome, anche questa oggi, guardate, La sindrome del cieco nato. Conoscete l'episodio evangelico del cieco nato? Ecco. E poi la risposta che dà Gesù, perché lì ci stanno la doppia categoria di ciechi, no? Quelli che sono ciechi realmente, come il cieco nato, e quelli che sono ciechi perché si sono accecati, come farisei, no? Testimoni di quell'episodio, il capitolo 9 del Vangelo di Giovanni. Quando Gesù guarisce il cieco, dice: io sono venuto a ridare la vista ai ciechi, ma a toglierla a quelli che pensano di averla, che erano i farisei. Allora, la sindrome del cieco nato è quello che non è cieco perché è quello che si attappa agli occhi. Quindi, in che senso? L'incapacità di vedere i difetti del proprio figlio. Quindi di avere uno sguardo oggettivo sulla persona da educare, sapendo riconoscere ovviamente insieme agli inevitabili pregi, anche gli inevitabili difetti. Sapete qual è il dogma slogan di questa sindrome? Guai a chi tocca mio figlio. Sapete come si vede quando uno ce l'ha? Subito l'esempio classico. Un povero disgraziato di professore, d'accordo, interroga un ragazzino, il ragazzino va male e gli mette 4 o 5. Spero che ancora li mettano questi voti, perché ai tempi miei si metteva anche 1 e 2. Rarissimamente, ragazzi, si metteva 9 e 10. Rarissimamente. Spero che sia anche così oggi, anche se dalle voci che mi arrivano ho qualche dubbio. Comunque, quel raro caso che oggi succede, voto negativo o una nota di condotta, il giorno dopo ci sono i genitori con minacce di denunce a pubblici ministeri. Come ti permetti? Come osi fare una cosa di questo genere? Mio figlio è bravo, mio figlio ha studiato, tu gli hai messo 4. Non parliamo poi, se supponiamo che, non lo so, mio figlio va da un amichetto a giocare, magari questo fa una marachella anche grossa, e questo gli permette di dirgli mezza parola, il genitore dell'amichetto di mio figlio torna a casa, me lo racconta, io alzo il telefono: come ti permetti tu di rimproverare mio figlio? Delitto di lesa maestà. Oppure, altro, c'ho mio figlio che gioca, non lo so, a pallone, o suona uno strumento. Beh, ovviamente se mio figlio gioca a pallone, come si chiamano? Adesso non so se lo dico bene perché non seguo più il calcio. Ho sentito dire che c'è un certo Messi, Messi, insomma, che è un fuoriclasse, un fenomeno, dicono che sia il nuovo Maradona. Io mi ricordo questi di quando ero giovane io, di quindi mio figlio è Maradona. Guai se qualcuno mi viene a dire che questa è una mezzo brocco, eh? Oppure suona? Ah, se mio figlio suona, certamente abbiamo il prossimo erede di Riccardo Muti, ovviamente. Non è che è uno che forse farebbe meglio a darsi a qualche altra cosa perché strimpella e gracchia qualche suono. Io sto tutto quanto scherzando e caricando. Però guardate, questa cosa oggi è diffusa. Parlo sempre di me così. Una volta sono tornato a casa al liceo con un 5 e stavo nero, anzi 2 volte, non una, due. Una al ginnasio, mi ricordo, venne un professore che era un prete di latino e greco, un supplente perché non, io, ai tempi miei non c'era. E questo era un professore che aveva come metodo, lo voglio vedere oggi se continua a fare così, chi lo sa che fine ha fatto. Quello di mettere all'inizio voti bassi, tenersi basso, poi alla fine dell'anno, se eri bravo, ti premiava e ti metteva anche 7-8. Mi acchiappa a me un giorno, mi interrogo, non mi ricordo se in latino o in greco, io ero sempre stato bravissimo in queste materie, però effettivamente, avendo visto i voti sparati, che mi erano stati frettolosamente, diciamo così, dati dal precedente supplente, un po' troppo, no? Ecco, perché non è tra l'altro molto educativo. All'inizio dell'anno era il quarto ginnasio, far pensare a una persona che è arrivato il nuovo Tacito o il nuovo. Ecco, no? E questo mi interroga e certamente mi fa delle domande, come dire, cattivelle, cioè tali da mettermi in difficoltà, io non vado in maniera brillante e mi mette 5. Io per me è stato, guarda, io l'ammazzo, cioè io aveva fatto un affronto gravissimo. Ecco, quando sono tornato a casa, l'ho detto a mia madre, speravo che mia madre mi spalleggiasse. Mia madre mi ha gonfiato. D'accordo? Questa è stata la sua reazione. E quando io dicevo, ma no, ma questo è un prete, questo è un pazzo, questo qua, questo è venuto, ma adesso si mette a fare, chi si crede di essere, a destra e a sinistra, mi ha dato il resto. Mi ha detto, questo è un professore. Fai il suo lavoro, tu studia, vedrai che se studi 5 non te lo mette, magari un pochino stretto di manica, e io non è che non sono tanto d'accordo, vedrai che poi alla fine dell'anno ti prenderà, così come di fatto è stato. Ma mia madre non sarebbe mai andata, a parte che non l'avrebbe mai detto a me. Non lo so se forse poi al colloquio con i genitori ha citato l'episodio, ma a me non ha detto assolutamente nulla, mai. E ha fatto bene, perché è sommamente diseducativo. Pensare che io prendo un brutto voto e arriva una papà e mamma che mi vengono a difendere perché chi lo sa che se, gli altri sono ciucci, a me invece è soltanto che ce l'hanno con me, che gli sto antipatico, che commettono le ingiustizie, eccetera, eccetera. Non può essere che un giorno uno studio. Ma chi l'ha detto questo qui? Allora, anche questo è diffuso oggi, ragazzi. Io ho detto la volta scorsa, io ho incontrato alcuni miei vecchi professori, bravi, che hanno detto che stavano a fare, questo è successo tanti anni fa ormai, il conto alla rovescia per aspettare l'età della pensione. Io gli dissi, professore, la prego, se ve ne andate pure voi con la penuria che c'è adesso in giro, dice, come lasciamo sti ragazzi? Quello che mi ha risposto lo dice, Pompei, lo so che c'hai ragione, ma io non posso stare tutti i giorni a combattere con i genitori, questi matti, arrivano delle denunce, minacciano le cose, appena tu metti mezzo voto strambo succede il putiferio. Questo è. Questo è. Mio figlio, cioè, quando si sente mio figlio o mia figlia, c'è cioè, proprio, come dire, una trasformazione, come se uno avesse. Io lo capisco, cioè, potreste anche uno dire, oh, tu parli bene, tu sei un prete, i figli tuoi non ce l'hai, quindi non puoi capire con un figlio pezzo di cuore, dicono a Napoli, una cosa del genere. Io non voglio discutere questo, d'accordo? Per carità di Dio, mi guardo bene. Però l'amore anche profondo che si prova verso un figlio non può e non deve accecare. Ecco, perché se mio figlio non è un asino, non è una cima, o è uno scansafatiche, io lo correggio, lo rimproverà. Capite? Non so se spero di riuscirmi a far capire. Ricordate sempre che si può intervenire in diretta, se qualcuno non dovesse capire bene, dato che ogni tanto mi arriva qualche ritorno che non sempre quello che dico è correttamente interpretato. Quindi, se qualcuno avesse qualche dubbio, c'è sempre lo 0825 e 444 391, se non ricordo male. No, questo è il numero, quindi può intervenire anche in diretta. E un'altra cosa, terza sindrome, la sindrome del telefono azzurro, io la chiamo. La sindrome del telefono azzurro è diffusa da circa una trentina, quarantina d'anni, cioè da quando, come dire, i novelli, come dire, oracoli indiscutibili e indiscussi dell'attuale società, cioè esperti o sedicenti tali in scienze umane, quindi psicologia, sociologia, antropologia e tutte quante le gie moderne, che hanno di fatto preso il posto degli educatori cattolici, d'accordo, che oggi nessuno se rifila, hanno sentenziato che qualunque forma di disciplina, di severità, è sempre comunque nociva e lesiva per i figli, che li fa crescere repressi, li fa sentire non amati e quindi li andrà a rovinare. Quindi diciamo che c'è un dogma slogan: i figli non si picchiano. Allora, nessuno, attenzione a quello che dico, perché dopo nessuno sta dicendo che bisogna prendere i bastoni e fare violenze sui minori o massacrarli o cose di questo genere. Credo di aver letto qualche passo della Sacra Scrittura dà altre indicazioni. Ecco, anche abbastanza cruente, ovviamente con un linguaggio che va decodificato, perché formulato 3.000 anni fa o 4.000, 3.000 anni fa, e quindi bisogna trarre come, cioè, come dire, l'insegnamento, la sostanza, non certamente metterlo in pratica alla lettera, no? Quando dice se ami tuo figlio usa il bastone, non significa che se non bastoni tuo figlio non lo ami. Perché se ti capita un figlio che Dio che è beato a lui, così buono e così santo, che non c'ha bisogno, tanto meglio, d'accordo? Però il discorso è che alla dolcezza e all'amore va sempre aggiunta, sempre nell'educazione, almeno un minimo di disciplina e di severità. Almeno un minimo. Perché altrimenti l'aver abdicato completamente a un minimo di severità, cosa ha causato? Guardate gli statisti che stanno in giro, personalità instabili, inconsistenti, molli, incapaci di fare una decisione, arroganti e presuntuose. Questo è il quadro purtroppo di molti giovanotti e si vede poi dai frutti che matrimoni in calo, famiglie in calo, matrimoni che durano poco, dilagare delle convivenze, eccetera, eccetera. Ma è inevitabile che sia così. Per forza che questo accade. Quindi chi induce ad un'educazione troppo molle, quindi che abdica completamente alle più elementari regole di disciplina, che deve essere insegnata e mordono il freno, non fa niente. Poi ti ringrazieranno quando sono grandi. È responsabile delle personalità sgangherate e fragili che oggi purtroppo sono così tanto diffuse. Un'altra follia, questa è un'altra follia, lo stato puro dei nostri tempi, la chiamo la sindrome di Cappuccetto Rosso. Ma sapete che Cappuccetto Rosso gli era stato detto non andare nel bosco da sola, perché se vai nel bosco da sola ti perdi, c'è il lupo e ti mangia. No, no, no, no, no, io vado tranquillamente, tanto non mi succede niente e la strada la ritrovo. Tutti voi avete sentito la favola di Cappuccetto Rosso, no? Cappuccetto Rosso poi il lupo lo trova, travestito da nonnina, se lo mangia, poi arriva il cacciatore, ecco, che uccide il lupo, gli spacca la pancia e tira fuori Cappuccetto Rosso e poi gli tira le orecchie e dice: "Che hai fatto? Andartene via da sola? Oh, povero me, meno male che sei venuto tu cacciatore e mi hai tolto dalla pancia del lupo." Ora, dovete sapere che il finale della favola, altre volte forse me l'avrete sentito dire, questo lo racconto abbastanza spesso, fu un'aggiunta successiva, perché la favola finiva con il lupo che si mangia Cappuccetto Rosso, perché i cacciatori che spaccano la pancia, come dire, trovarsi dentro la pancia senza essere masticato, quindi senza essere stato fatti a pezzi, è cosa che si legge soltanto nelle favole, no? Nelle fiabe. Ecco, ma la favola finiva così, solo che lo scrittore fu rimproverato dall'editore che diceva: "Guarda, la favola è bella, la favola funzionerà, ma deve fare sto finale truculento, anziché educarli, i ragazzini li terrorizzerà, quindi cerca di metterci un lieto fine." Ma nella vita, ragazzi e ragazze, e anche genitori e genitori, il lieto fine spesso non c'è. Allora, questa grande cretinata che mi fa dannare, i figli devono fare le loro esperienze, io li devo lasciare liberi, devono scegliere, che devi fare tu? Devono fare le loro esperienze, devo lasciarli liberi. Dico: "Ah sì?" Dico: "Guarda, allora facciamo un attimo una cosa, devono fare le loro esperienze, io gli regalo una bella moto, che va a 300 all'ora, siccome, allora facciamogli fare questa bella esperienza, li metti sulla moto a 300 all'ora, come cantava Giove Battisti negli anni 70, a fari spenti, ma contromano in autostrada. Vediamo questa grande esperienza, se riescono a provare. Ma c'è qualche persona, come dire, con un minimo di buonsenso che farebbe una cosa di questo genere? Oppure voglio sentire come ci si sente quando un camion ti pesta un piede. Quindi adesso io vado per strada e mentre attraverso sporgo un piede, quando passa un tir lo metto sotto la ruota perché voglio sentire che cosa si prova. Ma dico, non sarà che forse i genitori, proprio dall'alto della loro esperienza, devono evitare di far fare ai figli le esperienze negative? adesso, guarda, ho visto la sega elettrica, dico adesso prendo la sega elettrica e mi taglio un braccio, perché voglio vedere come si vede con un braccio solo. Ma che capite? Questa è un'altra cosa diffusissima. Sapete quanti ragazzi vi parlo da prete? Io raccomando ai genitori, dico, guardate, mano a mano che crescono, spingeteli. Certo, a 18 anni non puoi più obbligarli, però prima puoi indirizzarli, no? Non gli far perdere i legami completamente, per esempio, con i luoghi, tra virgolette, si spera santi, con i gruppi parrocchiali, col post-cresima. E con qualche altra cosa, perché fuori di questi ambienti c'è il nulla, cioè c'è la perdizione garantita. Cioè, io dico sempre ai genitori: voi sapete indicarmi un luogo tranquillo dove i vostri figli sono sostanzialmente al riparo da grandi pericoli, possono al tempo stesso fare amicizie positive e, come dire, assimilare qualche buon valore al di fuori del contesto della comunità ecclesiale? Ditemelo, così ce li mando pure io che lavoro un po' di meno. Io non ho certamente la pretesa né l'ambizione che la Chiesa debba avere il monopolio, ma ditemelo, esiste? Fatemi una telefonata, qualcuno di voi che sta qui collegato, ditemelo se esiste. Garantito però, eh? E fare esperienze non negative vuol dire nemmeno quelle che nel mondo, come dire, laico, profano, sono considerate assolutamente normali, tipo sesso libero a 13 anni, ecco, per esempio, no? Ecco. Quindi, questa è la sindrome di Carpocetto, i figli devono fare le loro esperienze. Io devo lasciarli liberi, siamo stati giovani anche noi, impareranno da soli. Allora, altro cancro endemico causato dal nostro sciaguratissimo tempo, che è la sindrome del medico pietoso, che ha come slogan: i figli vanno sempre accontentati, quindi bisogna dire sempre di sì. E bisogna assecondarli in tutti quanti i vizi, i capricci, le cose. Sono le cose della volta scorsa. Allora, a 10 anni vuole l'iPhone, a 10 anni, l'iPhone 5, un telefono che costa 720 euro, e glielo compriamo. A 11 anni vuole l'iPad 4 di ultima generazione, 64 giga, perché sennò c'entrano pochi film e pochi cartoni animati, e glielo compriamo. Altrimenti mio figlio soffre, cresce frustrato, deve avere tutte quante le cose che non ho avuto io quando ero giovane, questo è, capite? Altrimenti si sentirà inferiore, gli altri vanno in giro, non lo so, con i capi firmati dalla testa ai piedi, io non c'ho una lira, però se non si mette il pantalone a vita bassa con quella Shaq Griff che gira oggi, che non ho idea, sono quelle che giravano ai tempi miei, dopo tutti lo prendono in giro e si vanno a fare i debiti per questo. Ma voi capite che roba? Tale sindrome attesta l'egoismo dell'educatore, che deve prendersi la responsabilità e il dolore, talora non lieve, non solo di soffrire lui, perché, ma anche di far soffrire in vista del bene, anche di saper dire di no. Questo è no, perché non c'è nessun motivo per cui sia sì. E se soffri, offri, così impari un pochettino da piccolo. La regola è dovrà imparare da grande se vuoi essere un buon cristiano: soffrire e offrire. Siamo arrivati alle 17, ragazzi, facciamo un attimo un'Ave Maria, facendo anche mea culpa, perché quest'ora avremmo dovuto finire, invece siamo rimasti ancora con 4-5 sindromi e mi sa che ci vorrà tutta oggi, purtroppo, per finire il quarto comandamento e non riusciremo a aprire il quinto. Comunque intanto facciamo l'Ave Maria di pausa. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. E benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Allora, ci manca ancora qualche sindrometta. Allora, abbiamo poi la sindrome della mamma chioccia, oggi in fase nettamente calante, ma non del tutto debellata, ecco. Questa è presente soprattutto nelle situazioni oggi non rare e non infrequenti di famiglie sfasciate, cioè di famiglie dove, ahimè, separazioni, divorzi, o addirittura famiglie che non sono mai state famiglie, quindi frutti di libere convivenze, che poi il convivente se n'è andato per conto suo, Oppure pure frutto di convivenze mai nate, d'accordo? Perché oggi tanto si fanno i figli a destra e a sinistra. Allora, che succede? Che l'educatore, generalmente la mamma, che rimane, o spesso in situazione di latitanza, più o meno colpevole del padre da sola, a dover, come dire, prendersi cura di questa povera creatura innocente che paga sempre le colpe degli sciagurati genitori, che succede? Succede che esaspera l'aspetto di per sé stesso non contestabile, anzi doveroso. Ma capite? A Roma si dice che il troppo stroppia, sempre. E Aristotele diceva sempre che la virtù è sempre il giusto mezzo tra il troppo e il troppo poco, cioè né troppo poco. Ecco, la mamma chioccia, quindi c'è un principio che i figli devono essere seguiti e controllati, ve lo sto dicendo da quando abbiamo cominciato il quarto comandamento. Certamente sì. Però seguirlo e controllare non vuol dire asfissiarlo, soffocarlo e proibirgli tutto in maniera sconsiderata, a volte guardate assolutamente che sfiora il ridicolo, cioè correndo il rischio, l'abbiamo visto a suo tempo, non di educare un figlio, ma di esasperarlo, cioè ingenerando delle situazioni che poi, credetemi, sono destinate presto o tardi a esplodere in forma drammatica. D'accordo? Perché un ragazzino abbozza, abbozza, abbozza, abbozza, abbozza, dopodiché non ce la fa proprio più. Anche se è buono, docile di carattere e mite e mansueto, cioè a un certo punto è proprio troppo. Quindi certamente che i figli vanno seguiti e controllati, però in maniera, cioè, scusate, che un ragazzino a 15-16 anni ti chieda: accompagni tu, il sabato sera posso andare a mangiare la pizza con i miei compagni, cioè, magari dice, voglio fare il severo, lo accompagno, dove andate? Alla pizzeria, non lo so, al Black and Jack, a che ora? Ti accompagno io, papà, alle 8:30, rimani lì, quanto dura la pizza? Un'ora e mezza, due? Va bene, alle 10:30 ti passo a prendere in pizzeria, c'è qualcosa di... Cioè, cosa vuoi che faccia in quelle 2 ore che sta in pizzeria in un luogo pubblico con gli amici? Non credo che possa fare grandi cose, no? A 16 anni penso che si possa fare una cosa del genere, no? Cioè, se tu dovessi dire di no anche a questo, cioè sarebbe un orbice, cioè, che tu mi dici voglio andare in discoteca e tornare alle 4 di notte, ovviamente spero che questo qui siamo abbastanza d'accordo, insomma, che è una cosa che non si può fare. Ma non che esco con qualche amichetto, con i compagni di classe, a mangiarmi la pizza tutti quanti insieme e poi torno a casa. Questo mi sembra una crudeltà. Oppure, non lo so, sempre a quella stessa età, la sera usciamo, i ragazzi mettono d'accordo, andiamo a vedere un film al cinema. Io posso certamente informarmi se è un film, anzi devo, decente. E perché gli devo dire di no? Cioè, che cosa vuole succedere dentro una sala cincinnata, che è quello comunque un luogo pubblico dove stanno tutti insieme? Cioè, bisogna avere questo, ecco, e anche saper dare gradualmente la fiducia, sempre controllata e sempre con attenzione, che i figli mano a mano vengano a meritarsi, insomma, no? Ecco, certamente stando sempre vigilanti, cercando di evitargli, abbiamo visto, insomma, no? Di evitargli le esperienze di peccato e anche le occasioni di peccato, come il dovere di un genitore. Senza esagerare, no? Un altro grave attestato di egoismo, perché in realtà la mamma chioccia, la sindrome della mamma chioccia è fondamentalmente la sindrome dell'egoista, cioè di quello che vuole comunque il figlio tutto per sé. D'accordo? E sapete che ci sono state anche delle forme anche espresse in letteratura estrema di questo, cioè di questa forma, diciamo, subdola e raffinata, ecco, di egoismo genitoriale. Analogo a questa, secondo me, è la sindrome di Amnesty International. Amnesty International, sapete, è l'amnistia internazionale, cioè è una delle tante organizzazioni, cioè è uno scherzo, ecco, che ha come slogan questo: la guerra è sempre da evitare, c'è il pacifismo assoluto, cioè che la guerra sia ordinariamente da evitare è asserto pacifico, sia per l'educazione, sia per i rapporti internazionali, sia comunque per ogni forma vivendi. Diceva il grande San Giovanni Bosco che è meglio farsi amare che farsi temere, che l'educazione va fatta più con l'amore che col timore. D'accordo? Intanto è vero che vedete, se nelle case salesiane, almeno una volta si leggeva il motto di San Giovanni Bosco, studia di farti amare. Perché se ti amano, infatti, ti obbediranno facilmente e difficilmente dovrai ricorrere, come dire, ai mezzi coercitivi. Però bisogna fare attenzione, perché purtroppo, io dico sempre, Gesù che cosa porta, la pace o la guerra nel mondo? Attenti prima di rispondere, ragazzi, perché nel Vangelo sono scritte tutte e due le cose. C'è scritto quello che noi diciamo ad ogni messa, lo dice il sacerdote prima della comunione, vi ricordate? Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Ecco il congedo del Vangelo, il lungo discorso di Dio del Vangelo di Giovanni. Ma ci stanno i Vangeli dove Gesù dice: non crediate che io sia venuto a portare la pace sulla terra. Non sono venuto a portare la pace, ma una spada, dice in una versione, e la divisione in un'altra versione. Sono venuto a dividere il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno i membri della stessa famiglia. Ora, domanda. Cosa porta Gesù, la pace o la guerra? Anzitutto non è vero che porta sempre comunque la pace, no? Se lui stesso ha detto che è venuto a portare una spada, questo non lo dice Don Leonardo, eh? Questo sta scritto nel Vangelo, sta scritto. E non è interpretazione, sono proprio alla lettera le parole che vi ho citato. Allora, come la mettiamo? La mettiamo in un modo molto semplice, perché diciamo che Gesù è venuto a portare, come dire, nella sua volontà la pace che viene da Dio, che è pace con Dio, con se stessi e con gli altri. La guerra Gesù la porta, come dire, a San Tommaso avrebbe detto per accidens, quindi non come suo desiderio volontario, ma come conseguenza inevitabile del fatto che stando nel mondo molti suoi discepoli non saranno capiti, saranno presi per pazzi e saranno contrastati. E quindi, per essere fedeli a Gesù, dovranno porsi in una situazione di opposizione, addirittura a volte contro i membri della stessa famiglia. Questo si stima. Santa Chiara non è scappata di casa per perseguire San Francesco, per esempio. Lo sapete tutti quanti, no? Ha sbagliato? Va all'inferno per quello che ha fatto Santa Chiara? Oppure si può dire a Santa Chiara: guarda, che bella, bella santa che sei, non hai osservato il quarto comandamento. Sei scappata di casa per andare appresso a quel pazzo di San Francesco. Ma che brava che sei! Non dovevi stare a casa a obbedire a papà e a mamma? Cosa dite? Allora, la guerra è ordinariamente da evitare, anche con i figli. Cioè, io non posso educare i figli a forza di sganassoni o col regime giacobino del terrore. Cioè, il primo sgarro ti porto alla ghigliottina e ti taglio la testa. Assolutamente. Però possono crearsi delle situazioni di tensione, possono anche a volte crearsi dei veri e propri bracci di ferro e a volte delle situazioni borderline. Io faccio delle domande adesso provocatorie. Rispondete. Tuo figlio si va a convivere. Tu che fai, genitore? Accetti la nuova famiglia come se niente fosse, perché ormai lo fanno tutti e che possiamo farci? Che faccio? Lo ammazzo? Che faccio? Lascio le provocazioni, eh? Tuo figlio si sposa al comune. Vai al matrimonio come se niente fosse? Punto interrogativo. Che facciamo? Tuo figlio o tua figlia, non lo so, una bella estate, si mette in testa che vuole andare in vacanza con il fidanzato e ti minaccia e dice: guarda, mi dai i soldi tu oppure mi prendi i soldi che ho da parte, vado in vacanza con il mio fidanzato, con o senza il tuo permesso. Supponiamo che lo fa. Quando torna tu che fai? Punto interrogativo. Sto facendo delle provocazioni, quindi citando dei casi limiti, volontariamente. Ditemi voi quello che bisogna fare in questi casi. Io non rispondo, d'accordo. Però bisogna fare attenzione alla sindrome di Amnesty International, cioè in alcune circostanze, non è che me lo sono andato a cercare io, quindi esperiti tutti quanti i mezzi pacifici, dopo averti dato l'educazione, dopo avermi sforzato di averti trasmesso alcuni lavori, alcuni valori, scusate, dopo averti cercato di persuadere con calma, di farti capire le cose, di spiegartelo una volta, due volte, 30 volte, 500 volte, tu fai il contrario di quello che io ti ho insegnato e mi sfidi, cosa facciamo? Le lascio con il punto interrogativo, eh? Abbastanza fuori moda, andiamo avanti, come la sindrome della mamma chioccia, ma anche questa non del tutto spenta, specialmente in alcuni luoghi, a quanto pare, della nostra penisola, è la sindrome del padre padrone, cioè l'educazione che è ridotta all'uso indiscriminato, massiccio e spregiudicato dei mezzi coercitivi, nonché dell'imposizione arbitraria e autoritarista delle cose. Si fa così perché qui comando io, punto e basta, finito, chiuso, senza spiegazione, senza misura e senza discrezione. Oggi, chiaramente, questo effettivamente, che oggi non si vede quasi più perché succede una cosa di questo genere, i figli ti denunciano e ti mandano dritto dritto in galera, anche perché poi i giudici ti condannano subito per questa cosa qui, perché oggi di tutto si può parlare meno che di questo. E tuttavia, tutti quanti sappiamo, immaginiamo che qualche tempo fa, in passato, indubbiamente questa sindrome ha caratterizzato alcuni schemi educativi facendo dei danni. A mio modestissimo parere, ecco, quando non è proprio portata all'esasperazione che diventa follia, danni meno gravi di alcune sindromi specularmente opposte. Ecco, secondo me, però questo è il mio parere personale. Ancora un'altra sindrome, la cosiddetta sindrome, io la chiamo della rassegnazione imbelle o della desistenza, che è un'applicazione sciocca, a mio parere, e maldestra, e, come dire, di una sorta di retaggio. Tipico dei genitori post 60ottini. Allora, quelli che erano giovani negli anni 60 e 70 ne hanno effettivamente fatti tutti i colori, d'accordo? Ne hanno fatti quante Carlo in Francia. Allora poi si mettono a fare i genitori e dicono: sentite, a noi non esageriamo con questi poveri ragazzini, ma siamo stati giovani anche noi, ma ne abbiamo combinate di tutti i colori, ma che vogliamo pretendere da questi? Cioè, poi tutto sommato, con tutto quello che abbiamo fatto, non è che è proprio successo la fine del mondo, in qualche modo ne siamo venuti fuori, e pazienza, insomma, lasciamoli fare. È un po' diverso dal far fare le loro esperienze, perché qui praticamente ci si appoggia, come dire, verso un dato ineluttabile. Ora, ormai i tempi sono cambiati, fanno tutti così, alcuni mali, secondo questa te, non si possono evitare. Vabbè, considerando che anche noi da giovani non siamo stati tanto santi, rassegniamoci. E tanto c'è niente da fare, e tanto come ne siamo venuti fuori noi, ne verranno fuori anche loro. Come se il fatto di aver commesso un peccato bastasse a chiudere per sempre la bocca a chi ha il compito di correggerlo, prevenirlo o ripararlo. Cioè, non è che se io sono stato, cioè, se io sono stato un prete, e magari in passato sono stato un peccatore, non è che per questo posso dire: ah, siccome io ho fatto quel peccato, adesso non parlo contro quel peccato, perché sennò che bella figura ci faccio, l'ho fatto pure io. Che significa questo? Anzi, se io so, ahimè, per esperienza personale, quanto è negativo il peccato, ne parlo al doppio. E proprio perché l'ho fatto io, e adesso non lo faccio più, chiaramente, dirò alle persone: non fate questa cosa. Non soltanto perché lo proibisce la legge di Dio, ma perché questo sciagurato che l'ha fatta sa anche per esperienza personale quanto sia negativo e quanto sia nefasta. Quindi, un'applicazione sana di questi principi, secondo me, ecco, quindi prevenire, correggere, riparare il peccato, avrebbe prevenuto tante cadute, tanti disastri, ecco, in cui purtroppo i ragazzi incorrono in età giovanile e che purtroppo hanno causato tanti danni. Ora, se ne restano soltanto tre che affrontiamo rapidamente, che sono la sindrome del timido, quella del modernismo e quella dell'illuso, anch'esse molto diffuso. Allora, chi è il timido? Allora, il timido o il debole? È quello che magari saprebbe anche e ha un'idea di come andrebbero educati i figli. Ma non riesce in qualche modo ad esercitare la dovuta autorità. Cioè, Quindi per una sorta di incapacità innata, di debolezza. Oggi i genitori deboli sono tanti, sono, perché sono guidati dall'idea sbagliata, e questa è un'idea sbagliata secondo me, sommamente anticristiana, perché Dio non fa così. Cioè che se tu in qualche modo, come dire, agisci, intervieni, vieti, correggi, punisci in senso buono e quando è necessario, fai soffrire la persona. E la sofferenza è il male assoluto. Guardate che se uno dovesse, provate un attimo a chiedervi, nella società attuale, cos'è che è considerato, tra l'altro il male assoluto, adesso è un concetto filosoficamente errato, perché non esiste il male assoluto. Però, qual è la cosa più grave che oggi considerano che possa succedere? La sofferenza. La sofferenza. Quindi far soffrire è sempre da evitare. Ma questo è sbagliato. Perché nostro Signore ci vuole bene? Penso di sì. È nostro Padre? Penso di sì. Ci toglie tutte le croci dalla nostra esistenza? Direi proprio di no. Gesù ha detto: se vuoi essere mio discepolo, la devi prendere la croce che comunque mio Padre ti dà ogni giorno, eh? Solo che tu la puoi prendere, cioè accogliere e portare con amore, oppure la puoi trascinare. Oppure puoi smoccolare e portarla controvoglia, oppure la puoi sbattere, provare a sbattere al muro, ma tanto ti ritorna inevitabilmente sulle spalle. Puoi farci quello che vuoi, ma tanto quella croce il Padre te la dà perché ti fa bene. Quindi attenzione. La sindrome del modernismo sbandiera il trito, ritrito. E stupido slogan. I tempi sono cambiati, non si possono più imporre certe cose o certi valori. I tempi sono cambiati. Ormai è così. Ma chi l'ha detto questo qui? I tempi cambiano sotto certi punti di vista, indubbiamente sì, d'accordo. Chi è che oggi potrebbe fare una vita, cioè, vivendo nel mondo così regolata come si faceva un tempo in una società agricola, che ci si alza alle 4, si fa colazione alle 5, si fa pranzo a mezzogiorno, si fa cena alle 7, alle 8 e mezza, 9 si sta già a letto? Il mio sogno, ragazzi. È impossibile. Ma i preti, che i miei confratelli fino a 100 anni fa, 80 anni fa, campavano così, campavano, come del resto la maggioranza delle persone. Quindi, sotto certi aspetti i tempi sono cambiati, ma i tempi cambiati non possono cambiare alcuni valori cristiani che sono sempre gli stessi. La Madonna che cosa disse a Fatima? Verranno mode che offenderanno molto Dio. Non bisogna seguire le mode, perché la Chiesa non ha mode, Dio è sempre lo stesso. Quindi, aprirsi alla modernità, cosa doverosa, è cosa che va fatta però con discernimento. Cioè, certamente non è che tu sei un santo educatore, se oggi che c'è internet prendi tuo figlio e per fare una ricerca che ci metterebbe un minuto facendo un clic sul motore di ricerca, ti fa la ricerca come facevo io quando ero piccolo, cioè i libroni interminabili, 12-14 volumi, dovevi andare sull'indice, cercare una cosa e stare 3 ore a sfogliare libri, ci cioè mettevi mezza giornata per fare una ricerca. È una stupidaggine questa qui, no? È una sciocchezza. Quindi è ovvio che su questo, se non è certamente fare un buon educatore che tu dici: ah, no, no, no, qui bisogna fare come ai miei tempi, che si prendeva l'enciclopedia, queste sono sciocchezze queste qua, no? Oppure l'opposto di quello che ho detto prima, cioè: ah, io il telefonino lo voglio manco vedere, lo butto via e quindi ne fai a meno, punto e basta. Cioè, l'estremo contrario di chi regala l'iPhone a una ragazzina a 10 anni. Queste sono stupidaggini queste qui, no? Cioè, è ovvio che noi dobbiamo essere aperti e vivere nel tempo in cui il Padre Eterno ci ha chiamato a vivere, così come oggi. Se poi un giorno cambierai, si tornerà indietro, torniamo tranquillamente indietro. Se si andrà ulteriormente avanti, si va ulteriormente avanti. Queste sono cose completamente accidentali. Ma Dio è sempre lo stesso, i valori sono sempre lo stesso. Specialmente lo sesto comandamento che tra poco farò. Non è che siccome c'è stata la rivoluzione sessuale e vietato vietare, sesso libero, non facciamo la guerra, facciamo l'amore, oggi si può fare tutto e non è più peccato. Questo lo dicono loro, lo dicono, cioè sono loro che vorrebbero dire che non è più peccato, ma è peccato mortale così come prima. E non è che siccome c'è stato questo, come dire, questo mare di fango, tu puoi dire, come diremo a suo tempo, beh, una volta il limite stava qua, cioè non si poteva fare nemmeno questo. Oggi, siccome i tempi sono così corrotti, spostiamo un pochino più avanti il limite, cioè diciamo che non si può fare questo, però al di sotto di questo facciamo finta di niente, perché quelle cose come se oggi si potessero fare, perché siccome oggi le fanno troppo grosse, allora quelle un pochino più piccole dobbiamo consentirle, perché altrimenti chi lo sa che succede. No, no. Non si può fare questo discorso qui. Sui valori non si toccano, d'accordo? Sui valori non si toccano. La sostanza dei valori non si tocca. Quindi, e l'ultimo, la sindrome dell'illuso. Ah, guardate, questo è un altro, guardate. Allora. Mi sa che l'ho accennata anche nella puntata precedente. Io di mio figlio mi posso. Io mi di mio, non ho bisogno di ricorrere a mezzi, a correzione, a coercizione di nessun tipo, perché io di mio figlio mi posso fidare, perché a me mi dice tutto. Vi ho detto forse la volta scorsa, no? Allora, che io, con i ragazzi un pochino più grandi del post-cresima, quindi fuori del contesto. Sapete che c'è una differenza enorme tra cui, da modo con cui io in parrocchia seguo l'ultimo anno di cresima e il primo anno del e diciamo, e il cammino dei ragazzi, ovviamente coadiuvato da alcuni miei validissimi collaboratori che ringrazio anche tramite radio, che se mi stanno sentendo ricevono anche il mio pubblico grazie. Però è con una differenza enorme, cioè, infatti la prima volta che vengono al post cresima stentano a riconoscere che sono io, perché il sistema è completamente cambiato, d'accordo? Perché io dopo la cresima li tratto veramente da ragazzi adulti nella fede, non ti controllo più, non mi importa, non ti trovo, vai a messa, non vai a messa, è una cosa che devi impararla tu, e neanche se viene o non viene il post cresima, la porta è aperta in ingresso e in uscita. Questo non vuol dire certamente che io faccio loro capire che gli voglio bene, che mi fa tanto piacere se sono presenti e che sono i benvenuti, ma in maniera differente. D'accordo? Allora, a questi ragazzi, io li ho presi più di qualche volta in varie, dico: sentite ragazzi, lo sapete che tanto non valete niente a nessuno, eh? Che tanto non dovete fare nessuna cresima, quindi non è che se dite la verità io non vi faccio fare la cresima, l'avete già fatta, quindi non ci avete niente da perdere. Quindi, però, aiutatemi. D'accordo? Perché devo sapere alcune informazioni reali, vere su di voi. Vi prego, se qualcuno di voi dice tutto ai genitori, per favore alzi la mano. Allora, io di mani alzate non ho mai vista una. Sapete cosa significa una? Perché i ragazzi sono tutto quello che sono, ma quantomeno sono onesti e sinceri. Perché i genitori non, forse dicono tutto, forse dicono tutto all'amico o all'amica del cuore, l'unica possibilità che dicono tutto a qualcosa, e a volte esagerando anche, perché non è bene dire tutto a tutti, dire tutto all'amico del cuore. Ecco. Casomai sarebbe da dire tutto, se proprio non vuole parlare con un genitore, sarebbe da trovarsi un buon confessore, un buon padre spirituale, no? Ma non lo fanno i ragazzi, è molto difficile. Ecco, cioè nel senso che se tu riesci a conquistare il cuore, piano piano si cominciano ad aprire e a darti una certa fiducia. Io sto parlando della maggioranza, è ovvio che ci sono alcuni ragazzi che sono bravi, che comunque vogliono seguire Gesù, quindi si confessano spesso con una relativa facilità, si aprono, ti parlano. No, io però sto parlando della maggioranza, almeno a me, anche qui fate qualche telefonata, non consta che sia così semplice. Cioè, prima di conquistare il cuore di un ragazzo, te lo devi conquistare. Ecco, quindi non è così scontato. E dopo che te lo sei conquistato, non pensare che ti venga immediatamente a spiattellare tutto. Piano piano ti dirà tante cose, no? Questo è normale perché durante l'adolescenza c'è questo, magari forse un giorno faremo qualche ciclo di incontro su questo, c'è questo fenomeno normale che si verifica, come dire, di presa di distanza dal mondo degli adulti. Cioè, l'adolescente che deve affermare in maniera, come dire, perentoria il suo non essere più un bambino, perché l'adolescente, sapete, non è né un uomo né un bambino, né carne né pesce, quindi non è un uomo, però gioca a fare il grande, e quindi giocare a fare il grande vuol dire, come prima cosa, emanciparsi dal mondo dei grandi, quindi questi sono atteggiamenti che i giovani prendono. E tu, educatore, tu, genitore, questo lo devi sapere, anche perché, cioè, io vorrei tanto chiedere a questi qua, ma tu quando eri, quando c'erano 13-14 anni, dicevi tutto a tuo padre e a tua madre? Dicevi tutto? Per filo e per... Io no, ragazzi, purtroppo non prendete esempio da me, eh? Ecco, perché sono un cattivo esempio per quanto riguarda la mia gioventù. Io no, affatto. Cioè, ma questo non è che vuol dire che c'è dinanzi dei ragazzi debosciati o dei criminali, c'è davanti dei ragazzi normali, cioè... Un ragazzo che dicesse tutto, ammesso che esista, che qualcuno un giorno o l'altro malzerà sta benedetta mano, è un'eccezione, non è la regola. Quindi che significa? Tu devi sapere che non ti dice tutto. E quindi sta attento che se non ti dice tutto, dovrai verificare quello che ti dice, sapere che molte cose non te le dice. E quindi predisporre degli strumenti, come dire, di controllo e perseguirlo senza fargli sentire addosso il fiato, per evitare che imbrocchi qualche cattiva via. Sapendo che se c'è una cosa, sempre una mia esperienza personale, che distrugge completamente i ragazzini, sono le cattive compagnie. Ma tuo figlio non ti verrà mai a dire che frequenta un gruppo dove ci sta il RAS o il bulletto del quartiere che fa il fighetto con la canna in bocca, d'accordo? E che detta moda, e che quindi piano piano il principio che passa è che se vuoi rimanere nel gruppetto dove io sono il RAS incontrastato, anche se nessuno mi ha mai eletto, ma è di fatto così, o ti fai la cannetta pure tu o sei fuori. Ma questo non te lo dirà mai tuo figlio. Non te lo dice. Ci soffrirà anche tanto se magari non vuole fare una cosa di questo genere, ma non te lo dice, ecco, non te lo dice, a meno che tu non riesca a conquistarti una grandissima fiducia, cosa che non si può dare per scontata. Quindi vigila, sta attento, non ci vuole tanto, insomma, a... per chi fa un minimo di vita sociale, insomma, per chi c'ha un pochino gli occhi aperti. Ragazzi, e soprattutto meno ragazzi, il compito dell'educatore è un compito complicato, un compito difficile. Come faccio a fare tutte quante queste cose? Allora, ci sono sempre le prime due che sono indispensabili. Tanta preghiera e tanti sacramenti, perché abbiamo visto le cose che non funzionano, però la luce necessaria per saper prendere le decisioni sempre migliori nelle circostanze concrete. È cosa che a livello morale integra la virtù cardinale della prudenza, che San Tommaso diceva che è la regina delle virtù, perché senza la prudenza, cioè senza che io capisco bene che cosa è opportuno fare in questa singola situazione, voi capite che tutte le altre virtù è inutile che ci stanno, perché se sbaglio nelle scelte di fondo, a voglia poi essere forte, essere temperante, o a sforzarmi di essere giusto, purtroppo le decisioni di fondo sono sbagliate. Quindi è questo come la curo. Anzitutto preghiera e sacramenti, e poi formazione, cioè ecco, le cose che ho detto in questi incontri, certamente non sono tutte quelle che si possono dire, avevano lo scopo di formarci, perché io mi rendo perfettamente conto che molti genitori fanno degli errori macroscopici e madornali, semplicemente in perfetta buona fede, magari pensando di fare bene. Ecco, però non possiamo dare per scontato che quello che pensiamo sia il Vangelo e sia la verità assoluta. Dobbiamo essere sempre disposti a confrontarci, numero uno, col Vangelo, numero due, con la testimonianza dei santi e dei dottori, numero tre, con l'esperienza di uomini e di donne che sul campo hanno visto alcune cose e, come io, con la massima umiltà, insomma, con il massimo, come dire, spirito di servizio, diciamo così, ho cercato di condividere proprio per evitare che succedano alcuni episodi spiacevoli. Va bene, sicuramente la settimana prossima cominceremo aprendo il discorso sul quinto comandamento, dato che oggi non ce l'abbiamo fatta. Io vi do come sempre i miei saluti, augurandovi una santa settimana e a risentirci, se Dio vuole, la prossima settimana. Ave Maria.